Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio connection. This is Carmen Ross. At the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the drive. Eccoci qui, buonasera a tutti, io sono Riccardo, Ricky per la Friends, e siamo su Radio San Donà, 102-200, questo è Now Boarding, il programma degli italiani all'estero. Quando smetterò di ripetere le stesse cose sarà forse troppo tardi. Checco, ecco qui con noi Checco. Ciao. Il mio fedele compagno, visto che capirete perché compagno nel corso della puntata. Adattissimo questa volta. Questa volta ci ha imbroccato. Bene, cosa diciamo, Checco? Tanto la solita pappardella la sanno già. Questo è il programma, ripeto, degli italiani all'estero. Questa sera con noi abbiamo chi abbiamo? Non si dice, lo non diciamo si dice dopo. Però ospite in studio, era da un po' che non avevamo ospite qualcuno in studio qui. Sì, non possiamo neanche prenderlo per il culo quando, perché quelli su Skype, ragazzi, voi che magari state ascoltando, che siete stati su Skype intervistati tramite Skype, dovete sapere che durante le pause magari qualche battutina soprattutto Checco la fa, quindi sto giro non possiamo neanche prenderlo barra A per il culo, perché sennò sto giro non si può. Non si può. Vabbè, direi che ci ascoltiamo così in bomba una canzone. Sì, o... sai cosa faccio? Te la brucio subito e stavolta presento anche la traccia. Supergrass, St. Petersburg. Okay. Così abbiamo già svelato la meta. Before the morning Siamo a San Pietroburgo di Madre Russia. Ti viene bene però la pronuncia. Lo so, amico fratello. Siamo qui, noi in studio con Davide. Ciao a Davide. Tutti. Ciao Davide. Buonasera, bene? Tutto bene? Molto bene, grazie. Ciao, come stai? Tutto bene? Oh, grazie per essere venuto a trovarci. Grazie a voi. Sono qui in solitudine, sempre noi due. Sì. Almeno abbiamo un ospite. Sì, questo è fisico. Fisico, esatto. Di nome e di fatto, direi. Sì, sì, sì. E adesso l'atmosfera da interrogatorio funziona un po' meglio, no? Sì, perché praticamente vi spieghiamo. Siamo seduti su un bancone, tipo una cattedra. Computer, mixer e microfoni davanti. Davide è dall'altra parte, di fronte a noi, con un paio di cuffie. Si sente solo da una parte sulle sue cuffie, sia le cuffie più scrause le abbiamo cacciate a lui, perché le sue erano più fighe, no? E allora, quando all'inizio della puntata è stato il Davide, quali vuoi quelle che sì, con il paraorecchi, come si chiamano, che tu che sai del mestiere, non lo sai, vuoi quelle in gommina o vuoi quelle più fighe da DJ? No, quelle da DJ. Io sapevo benissimo che non si sentiva da una parte. Grazie, ringraziamo. Prego. Quindi vabbè, convenevoli a parte, tutto bene, hai detto, ciao, come stai, tutto bene? Carascio, spassiba, cazzo, sei russo questo. vedi? Direi di partire con un terzo grado, dai, così in bomba. Iniziamo subito, età intanto? 25 anni. Di dove sei? Di San Donà. E a San Pietroburgo quanto tempo ci sei stato e quando? Sono stato da gennaio a marzo del 2010, poco più di 2 mesi. Ok, quindi quasi 2 annetti fa. Sì. E cosa hai fatto lì? Sono andato in una scuola di lingua russa per stranieri. Ecco perché sei russo, vedi che... Sì, quindi ci siamo già bruciati una domanda, che quel perché sei partito ce l'ha già detto, perché... vabbè, Davide, la durata l'avevi già decisa prima di... Aspetta che leggo testualmente qua, sennò Linus della situazione qua mi fa casino. La durata l'avevi già decisa prima di partire o pensavi di rimanere di più / di meno? No, sapevo già benissimo la mia durata del soggiorno, perché il permesso di soggiorno in Russia per turisti, sì, ma un massimo di 3 mesi. Quindi in base ai corsi che faceva alla scuola sono stato là poco più di 2 mesi, 2 mesi e un poco, sì, perché ho fatto in tempo a vedere sia San Pietroburgo e starci per 2 mesi, più ho fatto una settimana a Mosca, giusto per vedere com'era. Perché San Pietroburgo e non Mosca? Beh, perché a mio parere, tra le due, se non mi precedentemente informato, sì, tra le due è molto più bella San Pietroburgo. Ha una cultura che Mosca ce la sogna. Mosca è il centro economico, sì, della Russia. È più occidentalizzata. Sì, decisamente, decisamente. Ah. Ma quindi sei stato lì più o meno 3 mesi. Sì. Ci vivresti mai? Figa a parte, tanto la Fede non ti sta ascoltando. Figa a parte, no. No, perché provenendo dall'Italia, un paese per tutti caldo e ospitale, la Russia, intanto il clima che è completamente diverso, sì, soprattutto io sono andato in quel periodo da gennaio a marzo, sono i 2 mesi più freddi dell'anno, sì. Abbiamo toccato temperature meno 33 gradi, una cosa che a noi è quasi improponibile andare fuori. Sì, sì. E no. Ricordiamo che 2 anni fa, anche l'anno scorso, mi sembra, siamo andati tipo a meno 12, meno 13. E già era un trauma. Ecco, immaginatevi là, nel remoto nord. Okay. Senti, poi ci torniamo anche su questa storia, ma in 2 parole, quanti soldi stanno facendo sti russi? Non tutti, ma quelli che li stanno facendo. E dove li hanno trovati? Questa è una buona domanda da chiedere a loro. Vodka, caviale, buona. No, penso di no, secondo me c'è anche dell'altro. Bamba. Ma non saprei. Tu non hai si mai può chiesto? Dire. No, è meglio non chiedere certe cose. Non vorrei mai che qualcuno tirasse fuori la pistola. Volevo arrivare proprio a quello. Seconda canzone, abbiamo addirittura scomodato i Beatles. Davide, il terzo grado l'ha passato egregiamente. Direi proprio di sì. Sto giro sono contento. Sì, si è comportato bene. Grazie, professore. Grazie. prego, signore, prego. Torni al posto. Back in the USSR. In the USSR. US, back in the USSR. Well, the delivery girl's really knocked me out. The West behind. And my strong girls make me sing and shout. And Georgia's always on my mind. USSR. Well, the delivery girls really knocked me out. Leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. That Georgia's always over my, my, my, my, my, my, my, my, my, my. Oh, show me round the snow big mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your bell like it's ringing. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Hey, you don't know how lucky you are, boys. Back in the USSR. Questa canzone la conosceva solo Checco, credo. Ma va, sei solo tu che non la conosci, okay, altro che. Ok. Allora, Davide, partiamo un po' dall'inizio. Tu hai deciso di andare in Russia, imparare il russo e penso anche un po' a conoscere la loro cultura. Come mai? Perché? Perché la mia famiglia ha un hotel a Jesolo. E è già da parecchi anni che abbiamo turisti russi o comunque dell'est con madrelingua russa. E sinceramente era un problema per noi farci capire o spiegare delle cose, anche perché se immaginate che nella media dai 30 anni in su la gente là non parla altra lingua se non il russo. Soltanto i giovani ultimamente parlano bene il russo e almeno al minimo un inglese. Esatto. Sì, sì, sì. Se no per il resto zero di zero. Cioè, io sapevo che almeno da quello che ho sentito un attimo da fonti certe, che non insegnano proprio una lingua straniera, non li insegnano, non so tanto in Russia quanto forse un po' di più in Ucraina, Bulgaria, quei posti lì, proprio perché non vogliono che la gente da lì, quando ha 18-19 anni, vada all'estero e quindi rechi un danno alla forza lavoro. Sì. Sì, beh, sì. Questo discorso qua era fino a qualche anno fa era proprio così. Adesso ultimamente sono proprio i genitori che spingono i bambini fin da piccoli a imparare almeno l'inglese, in più tanti, soprattutto a San Pietroburgo dove sono andato io, l'italiano. Tanti bambini, ma anche di 10-12 anni, parlano molto bene l'italiano, appunto perché i genitori li spingono a capire subito le lingue e cercare di andare a lavorare all'estero, soprattutto in Occidente, sì, per un periodo che può essere breve o lungo, per poi ritornare in patria. Sì, sì, portare un po' di esperienza lì. Sì, esatto, esatto. E da quant'è che hai c'è questo flusso turistico consistente, insomma, da quanti anni? Non tantissimi, credo, no? Beh, per quanto riguarda Jesolo, il flusso intensivo di russi sarà cominciato sui 6-7 anni fa sono arrivati i primi. Dopo 5 anni fa c'è stato proprio un boom che è durato un 2-3 anni di russi, grande, no? sì, un gran boom, e adesso si sta normalizzando, insomma, comunque sono sempre ben presenti nel nostro mercato. Sì, infatti notavo che su dei listini, proprio dei listini sui bar, su dei bar anche a Jesolo, proprio anche in locali, no, baretti scrausi, cioè proprio anche localini un po' più giusti, diciamo, che proprio c'è la traduzione in russo sotto dei... Sì, è verissimo, verissimo. Dei cocktail, anche delle pizze in pizzeria. Sì, che sì, hai... sì. Ripeto, perché certe persone di una certa età, anche sui 50 o 40 anni, non conoscendo altre lingue straniere, per forza noi dobbiamo agevolare queste cose e invogliare la gente a fermarsi. Insomma, hai sentito subito questo bisogno, ci hai detto qui... Sì, era giunto il momento di decidere, prendere la valigia e andare, e via. Abiti pesanti e vai. Abiti pesanti, possiamo cominciare adesso questo discorso? Lo riprendiamo più tardi? Ma sì, fa sempre bene parlare del tempo. Come era il tempo in Russia? Beh, soleggiato. Soleggiato, ma... sempre sole, quasi sempre. Ma tanto freddo, tanto freddo, tanto, tanto. Prima ci raccontavi una storiella dei primi giorni. Sì, allora, i primi giorni che sono arrivato erano era metà gennaio. È una temperatura che per loro considerano normale. Erano sempre sui meno 18, meno 20. Sì. E al mio arrivo è stata una cosa tragica, tragica. Però dai, in tempo 2 settimane più o meno ti abitui a quella temperatura là. Dopo il fatto che è iniziata una perturbazione incredibile, un vento assurdo, neve, a valanghe. E la temperatura dopo un po' si è abbassata. Dai meno 18 in 2 giorni siamo arrivati a meno 25 e per un buoni 10 giorni abbiamo toccato i meno 33. Credetemi, se non avete mai provato sulla vostra pelle in meno 33, provateli là, no. Provateli o no? No, provateli perché no? Dopo per tornare indietro. No, è una cosa assurda, anche perché a fine gennaio da San Pietroburgo il pack dell'Antartico era a 100 km a nord. Quindi era molto vicino, era i venti erano assurdo, di un freddo che se a parole non si capisce. Si ghiacciavano le lacrime, ci hai detto prima. Sì, beh, è successo la prima volta sempre verso fine gennaio. Io tranquillo, beh, premetto che là i turisti si vedono subito da come sono vestiti. Nel senso, un russo medio è col suo bellissimo cappottino, mezzo aperto, senza berretto, le ragazze in minigonna senza calze tranquillamente. Il tipico turista ha almeno 2 calze maglie, 4 maglioni, 2 berretti, sciarpa e gli si vedono soltanto gli occhi fuori, se non indossano gli occhiali. Un po' come un turista che sale su un aereo Ryanair che per imbarcare imbarcare meno si veste tutto. Però allora è successo questa volta che da dove alloggiavo io alla scuola c'erano più o meno 20 minuti di camminata. Sì. E allora freddo incredibile, un vento assurdo, io come bello, come il sole, imbacuccato. Insomma, prendo e parto col mio zainetto, arrivo a scuola e freddo era. E il vento che c'era mi ha accelerato la lacrimazione tantissimo. Le lacrime man mano che andavano giù sulla pelle si ghiacciavano. Insomma, io arrivo a scuola, saluto tutti come al solito, ciao, come va? Mi faccio per tirare via la sciarpa, di colpo, strapponetto, tutta la pelle sotto gli occhi viene via a mo' di ceretta. 4 di quelle parolacce incredibili. Di bestemmia, dire altro esattamente. Insomma, sono stato 2 settimane con le borse. Quindi hai insegnato i porchi ai russi? Sì, esattamente. Il giorno la settimana dopo. Erano tutti che tiravano porchi alla mi salutavano. Ciao Davide! E giù! Grande! Ho un po' di cultura veneta. Bisogna darla, certamente. Simpatica sta cosa della ceretta. Ma quindi adesso i russi che arrivano in Italia, come sono? Porchi eccetera eccetera. Oddio, o... quelli che hanno conosciuto noi veneti casomai, forse anche sì. Ma quelli che arrivano tipo in albergo da te, e il tipo, il turista russo tipo. Beh, allora i turisti che vengono, russi che vengono in Italia sono di ceto medio alto. Sì, col grano. Sì, c'è ancora abbastanza differenza tra i ricchi e i poveri là in Russia. Però diciamo sanno già bene come moneta in tasca. Vengono qua, noi li additiamo come arroganti, presuntuosi. Sì, infatti non, esatto, non perché non li conosciamo. Gli diciamo subito: Madonna, che arrogante, che sulle balle che mi sta questo russo qua. Aggiungerei che da spusta. Soprattutto gli uomini. Però una volta che si va là, in quei posti, e si viene a contatto con la loro cultura, capisci che la loro non è, una cosa di essere arroganti verso noi, sì. È proprio la loro cultura ad essere siamo così. Noi, diciamo che siamo noi italiani a essere molto più estroversi, più solari, sì, esatto, ma freddi. Anche, sì, sì, ma è anche una cavolata. Quando ti devono chiedere un qualcosa, per esempio, che se vanno al bar, noi diciamo, scusa, mi piacere, mi porti questo. Sì. Loro ti guardano, ti indicano e mi dice, portami questo. Vodka! Vodka, pajalsta. È proprio la cultura loro, un modo di essere loro. Infatti volevo chiederti, quindi per te è utile non tanto, ok, fondamentalmente la lingua, ma anche capire un po' la sì, cultura, la loro no? cultura, sì, quindi sì, andare sì, lì sì. E cercare di capire queste cose anche piccole, però quotidiane, sì, sì, no? Sì, sì, sì, anche per non mandarli a cagare ogni volta ogni che volta. Mi vengono in bar da me. Ok. Vedi, io sta cosa non la sapevo, ad esempio, no? Di questo atteggiamento, insomma, che spesso in effetti viene frainteso. Sì, sì, sì. Neanche sì. Io, ti dico la verità, e soprattutto ragazzi, non è che ne avevamo parlato prima della puntata di questa cosa qui, è proprio stata una cosa in diretta, quindi siete partecipi in diretta alla mia conoscenza. Infatti, impariamo tutti insieme. Vabbè, io okay. Del sapientino Ravensburger. Ci stiamo incartando, Checco? No, siamo ancora lì per evitarlo, quindi ok, ci ascoltiamo i DDT. DDT, gruppo sì, russo. I DDT, giusto? DDT, che ho visto si scrive tipo casetta, casetta, T. Esatto, cioè, è una specie esatto, di casetta la D. Esatto. Ok, con alfabeto scrauso. Adesso chiediamo a Davide se la mia pronuncia è corretta. Vieter. Perfetto. Perfetto. Via. Vuol dire anche qualcosa? Boh. Però tanto, vai. Объятия, как простой. rientriamo in studio, Now Boarding con Davide, puntata su San Pietroburgo. Torniamo al discorso di prima, dicevi appunto della loro cultura. In questa scuola era, diciamo, essenzialmente lingua, studio della lingua, o anche in qualche modo della cultura russa veniva insegnata? Beh, era tutto un insieme. Diciamo che fondamentalmente le professoresse ti insegnavano la grammatica, la lingua. Dopo, soprattutto i primi giorni, le prime due settimane, a poco ti davano così dei suggerimenti su come comportarti in pubblico o domande da non fare e anche gesti da non fare agli altri persone. Tipo ad esempio una cosa a cui non so dare una risposta, il nostro gesto dell'ombrello, il classico ma vai, là è uno tra i gesti più offensivi che voi possiate fare a una persona e si incazzano da morire. Magari se li mandi a cagare in un altro modo, là non, cioè, lo subiscono come magari un... se gli dici figlio di puttana, allora dicono è vero. è vero volete, dai, scusate russi in ascolto. Beh, quindi gesto dell'ombrello sconsigliato, da evitare. Esatto. Una domanda per esempio che i russi non accettano, magari venendo fuori così in battuta, se si festeggia amicizia con qualche russo, è qualcosa riguardo i soldi che ha. Come hai fatto a prenderti il Porsche, il Ferrari, bla bla bla. Là tendenzialmente sono domande a non fare, si offendono. Si offendono per quello che prima ci dicevi, che quando ti abbiamo chiesto perché c'erano questi soldi che non li hai mai chiesto, meglio non chiederlo, diciamo. Ho capito. Ascolta, là come funzionava la scuola? Niente, allora nella mia scuola non stato in Russia o nella mia scuola il primo giorno, intanto permetto, una scuola internazionale, cioè io avevo gente in corso con me o che frequentavano altri corsi da tutto il mondo. C'erano svizzeri, arabi, cinesi, coreani, canadesi, sudamericani, proprio da tutto il mondo e di tutte le età. Nel periodo in cui sono stato io, il più giovane aveva 15 anni, il più vecchio ne aveva 67. Proprio cosa faceva a 67 anni, imparare russo? Voleva imparare il russo. Ah, così. Voleva così, niente da fare, in pensione, si è svegliato una mattina e ha detto: aspetta, andiamo a imparare il russo. Meno 33 gradi. Esatto, è andato via. No, è una cosa bellissima. Sì, sì. È una cosa bellissima vedere tutta questa gente che parla qualsiasi lingua. Sì, sì, sì. No, tutta in un posto. Che viene a contatto con, oltre alla la cultura russa, con culture da tutto il mondo. Appunto, è stato interessante anche parlare con qualche ragazzo sudcoreano che, che dici non... ma da dove vieni fuori? E via. Sì, sì, no, è stato simpaticissimo. E insomma, niente, il primo giorno quando arrivi là, i nuovi allievi fanno un test, una nostra prova grammaticale scritta, per vedere a che livello di conoscenza della lingua russa sei. Tu per esempio, non so se l'hai già detto prima, se l'hai già detto, scusami, avevi una conoscenza... Io avevo studiato da solo, qua a casa, l'alfabeto, i numeri, le basi, sì, non riesci ad applicare, parti proprio da zero. Infatti io sono partito da zero, proprio un principiantissimo, e sei diventato madrelingua. Madonna. Due volte. No, insieme, il primo giorno passa così, la prima mattina, per parte della mattinata, a fare il test. Dopo tempo che gli insegnanti correggono tutto, vengono divisi i vari studenti in gruppi. Ripeto, nella mia classe c'erano gente oltre da tutto il mondo. Avevo due svizzeri, un francese, un danese. Sembra una barzelletta. Esatto, e un marocchino. E di tutte le età. Io e un altro ragazzo eravamo più giovani, e il più vecchio aveva 55 anni, che era uno svizzero. Ah, era interessante. Interessante. Proprio sembra di tornare a scuola elementari, i primi giorni, con la professoressa che in madrelingua, pura madrelingua russa, se parlavi in inglese si incazzava. Si incazzava subito. Diceva proprio a gesti: io mi chiamo. Super livello base. Sì, livellissimo. Ma quindi, oltre alle raccomandazioni, alle cose da non fare, eccetera, che atteggiamento avete trovato? Cioè, tu che atteggiamento hai trovato nei tuoi confronti? Allora, così a prima vista sono tutti, sono persone molto fredde. Musoni. Molto fredde. Quando, quando la differenza che si può vedere subito tra camminare in centro città qua in Italia e là, qua siamo tutti che parliamo, gesticoliamo, ridiamo. Là stanno tendenzialmente tutti zitti, testa bassa, tra il freddo, tra il vento, tutti nessuno a testa bassa, parlare. Silenzio e via. A primo acchito sono molto freddi. Dopo se entri magari in, in confidenza, sono, si aprono, sono gentili, hanno voglia anche loro di divertirsi. Finale, sono russi, sì, ma sono persone, insomma. Sì, certo. No, dopo appena basta entrare in amicizia e così ti si apre un nuovo mondo. Notiamo la professionalità di Davide Albergatore nel dirci, sì, alla fine sono persone. Sono persone anche loro. È sensibile il ragazzo, infatti, Vediamo la lacrimuzza. Non ghiacciata stavolta. No, questa volta e nei confronti degli italiani, invece? Allora, là è una cosa molto interessante a San Pietroburgo. Allora, vi parlo di una città con più di 4 milioni e mezzo di abitanti, quindi una metropoli. Sì. Il centro cittadino è molto bello. C'è la strada principale che si chiama Nevsky Prospect, intorno alla quale ruota tutto ciò che c'è di culturale, il 90% di ciò che c'è di culturale a San Pietroburgo. Palazzi vecchissimi, sono tutti dal 500 all'800, bellissimi. La maggior parte di questi è stata progettata da architetti italiani. Quindi la cultura di San Pietroburgo è nata con un apporto enorme della cultura italiana. Sì, dopo è andata avanti nei secoli così, cioè, amen. Amen, esattamente. E niente, adesso i russi hanno questa, non dico venerazione, ma un grandissimo rispetto per noi italiani, perché avendo portato tutto quanto ciò che hanno, quasi tutto ciò che hanno di bello, il lusso, diciamo, esatto, il lusso compreso, il barocco, gran parte dei edifici barocchi che hanno sono di provenienza nostra italiana, certo, progettate a noi, quindi hanno questo rispetto incredibile che sinceramente non mi aspettavo e nessuno mi aveva mai parlato di questa cosa, che mi ha un po' lasciato sul di stucco. Per esempio, la prima volta che mi è capitato, la seconda settimana che sono uscito con dei miei amici che abbiamo socializzato là della scuola, siamo andati in questo bar e abbiamo iniziato a bere qualcosa. Appena le fighe hanno capito che lui era italiano. aspetta, questa la tagliamo. Abbiamo iniziato a parlare con questi miei amici e mi scappava così ogni tanto qualche parola in italiano. Al che mi si è avvicinato un ragazzo e mi ha iniziato a parlarmi in italiano. Era da queste parti, da Pavia. Ah, ok. E abbiamo iniziato a parlare: dove sei, dove non sei, come ti chiami, quanti anni hai, bla bla bla. E insomma, in parte a noi c'era una compagnia di ragazzi, sempre sulla nostra età. Sì. Che subito ci hanno guardato come spasimati, nel senso, ma alieni. Ci hanno chiesto subito in inglese: ma siete italiani? Sì. Quando abbiamo detto di sì, vodka per tutti! Hanno offerto parecchi giri di vodka. Dopo gli ho chiesto al mio amico: ma vabbè, ma simpatici, ma perché? Lui, questo mio amico qua, che lavorava là già da 2 o 3 anni, mi diceva che hanno un grandissimo rispetto per noi. E quando trovi le persone un po' più simpatiche, come in questo caso, quando vai nei bar, ti offrono da bere, comunque sono molto più socievoli, solo perché sei italiano. Certo. Un altro aneddoto. Unico stato al mondo in cui questo succede, esatto. Ma questo perché Berlusca era amico di Putin, no? Probabilmente. Un altro aneddoto è quando sono andato verso metà febbraio in una discoteca, tra le più belle di San Pietroburgo. Discoteca. Fila, le più belle di San Pietroburgo. Fila incredibile. Quasi tutti russi, giovani, dai 20 anni ai 30-35. E io ero là con il mio gruppo, siamo stati in 10, svizzeri, canadesi. E un mio amico che era là da più tempo mi prende da parte e mi fa: adesso ci avviciniamo al butta fuori, perché non facevano più entrare nessuno perché la discoteca era quasi piena. Mi fa: man mano che ci avviciniamo, fai finta di parlare con noi in italiano e noi cerchiamo di risponderti a meno peggio. Insomma, quando ci siamo avvicinati, ho iniziato a parlare un po' in italiano, del più e del meno, mi avvicino al butta fuori e gli faccio: si può entrare? Lui, tipo di 2 metri e mezzo, sì, incredibilmente, spalle apertissime, sì, mega muscoloso, fa: tu sei italiano? Mi fa. Faccio: sì, prego. Passato in 2 secondi, passato davanti almeno 50 persone solo perché ero italiano. Incredibile, il passepartout per la Russia. Sì, sì, sì, sì, sì. Bello, lo sta dicendo con un sorriso proprio vero. Sì, una cosa che mi ha stupito tantissimo è tutt'oggi quando lo racconto, a vedere anche le vostre facce, le nostre facce sono perennemente sul ma va in questo programma, e siamo sempre allucinati. Sì. Prima parlavi della prospettiva, una delle strade principali di San Pietroburgo. Sì, si chiama Nevsky Prospect. E noi neanche a farlo apposta, Franco Battiato, prospettiva Nevsky. Tac. Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i lenti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. Battiato ci piaceva, però riteniamo la puntata particolarmente interessante. Perché? Perché San Pietroburgo, la città che non dorme mai, è chiamata così. Proprio vero, proprio vero. Perché, scusa? Perché raccontalo. È proprio la città che non dorme mai. Cioè, io mi ricordo tante volte che si tornava indietro dalle discoteche a qualsiasi ora della notte. C'è sempre un tram tram di macchine. Fate conto che i supermercati, la maggior parte dei supermercati, dei ristoranti, là tiene aperto 24 ore su 24. Se volete andare a mangiarvi il sushi alle 4 e mezza di notte, è trovate aperto. Quasi tutti i ristoranti aperti. A prendervi, non so, un succo alle 2 e mezza, i supermercati sono tutti aperti. Le cose che mi ha fatto ridere abbastanza sono stata la prima volta tornato indietro dalle discoteche, erano più o meno le 4 e mezza. Io e i miei amici passiamo su queste strade e sentiamo dei rumori come se stessero rifacendo l'asfalto stradale. Ma ci avviciniamo e ho detto: madonna, a quest'ora è 4 e mezza, cosa fanno in giro? Ci avviciniamo, c'era sto gruppetto di 20 anziani, tra signore e signori, si guardavano i lavori. No, no, non è, no, come di qua. Solito, qua in Italia funziona così. No, tra i 60 e 70 anni, proprio che facevano loro i lavori. Vedevi la signora di 70 anni con il moto demolitore, tranquilla, un po' più piccolo, non immaginatevi quelli enormi che usiamo, sì, qua, proprio piccolo, là che spaccava l'asfalto, quella dietro che lo stendeva, e quello del signore un po' più robusto con la macchina che lo pressava. Sono cose assurde. E perché gli anziani? Perché non trovando altri lavori, perché sono troppo avanti con l'età, si accontentano di fare quei lavori che sono retribuiti pochissimo, sì, però là sono a un livello di assistenza sociale che sono come 100 anni fa, sono molto indietro, se no sarebbero morti di fame. Sono cose molto strane che all'inizio fanno ridere, perché mi sono messo a ridere la prima volta che li ho visti, dai. Dopo però ti fanno pensare a come se la cavano da quelle parti, esattamente. Okay. Inaspettata questa San Pietroburgo, no, Ricky? Cioè, parecchio, anche la cultura. Sì, diciamo che io da buon 20, si può dire 23enne ignorante, dire, sì, in materia. Io ero rimasto a 23enne, poi non volevo dire ignorante. No, vabbè, cioè, non sono mai stato in Russia e non sono mai sentito parlare. Diciamo che le cose che sai di San Pietroburgo sono, per riutilizzare termini già usati prima, e quindi si è censurato, me lo ricensuro anche adesso, e figa, caviale e vodka che è vicino, cioè, alla Finlandia, tipo. Sì, esatto, confina, San Pietroburgo confina praticamente, sì, quindi forse. Diciamo che sappiamo altri aspetti adesso un po' meno, che prima erano stati considerati un po' meno perché non siamo stati ancora in Russia, sì, per fortuna, sì, che Davide c'è stato, quindi ed è venuto a raccontarcelo. Sì, sì, San Pietroburgo ad esempio è chiamata anche la Venezia dell'Est perché viene attraversata da tantissimi canali, che loro chiamano canali ma per noi possono essere più simili ai fiumi, e 3000 ponti, cioè è una cosa che loro chiamano la Venezia dell'Est. Da veneziano posso dire che Venezia è tutta un'altra cosa. Ok, esatto. Il fascino di Venezia è indescrivibile, infatti, a confronto. Beh, siamo agli sgoccioli. Direi di sì, purtroppo sì. Sai che forse non abbiamo ancora mai salutato in questa stagione Marco, che cura il nostro blog con tanto amore. Ciao, ciao Marco. Marco. Marco Basutto, per chi vuole, per le donne che vogliono aggiungerlo su Facebook. Per chi non vuole aggiungere Marco, invece, o l'ha già fatto, insomma, Nowboarding Radio, sempre su Facebook, è la nostra pagina. Il blog, appunto, curato dal buon Marco, www.nowboardingradio.wordpress.com. Sito di Radio Sandona, www.radiosandona.it. Ascoltaci in streaming. Mail e nowboardingradio@gmail.com. In FM, come sempre, sui 102 e 200. Yes. Davide, siamo lì per sì, lasciarci, insomma. Strano interessante, grazie mille. Grazie a voi. E hai in grazie, programma sì, altri viaggi in no, Russia? Per il momento no, ho già ancora del freddo rimasto nelle ossa che devo smaltire. Esatto. Ok. Bene, verremo a trovarti quest'estate. Allora, grazie mille, appena tutti quanti numerosi. Dai, di il nome dell'hotel. Si chiama Hotel Milton Romantic, tra Piazza Marina e Piazza Neander. In parte la pelletteria da Pippo. Esattamente. In questo momento sono partite due sponsorizzazioni alla radio, uno dall'hotel Milton e l'altro da Pippo. Bene, noi ci vediamo il prossimo mercoledì. Davide, grazie ancora. Grazie, ci vediamo alla prossima. Ciao. Chiudiamo con un pezzo per nostalgici. CCCP, AYA, LUBLIU, SSSR. Ciao, ciao! Ciao! voglio adorare il sapore celeste del ferro, voglio vedere il profumo sanguigno del fuoco, esiste lo so! Non tutti possono, tendendo le braccia, afferrare la sorte, schiaffeggiarle la faccia, renderla solida ed obbediente, renderla tenera e incandescente. I am the West, West, West, West. I am the West, West, West, West. I am the West, West. Del marmo bollente, onoro il braccio che muove il telaio.